English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Nella puntata di questa sera torniamo a parlare di un libro. È la storia immaginaria di Marion e Shiva, gemelli identici, frutto della relazione segreta tra una giovanissima suora indiana e un chirurgo inglese che lavorano insieme in un ospedale missionario di Addis Abeba negli anni 50. Da lì si dipanano le vicende dei due gemelli sullo sfondo dell'Etiopia scossa da fermenti rivoluzionari. Il libro è La porta delle lacrime di Abraham Verghese. Ecco un brano dell'intervista della nostra cacciatrice di libri, Alessandra Tedesco. So this is an epic story that takes place over two continents, and I particularly like the idea of geography affecting your destiny. Napoleon said geography affects destiny, so I wanted to create a very medical novel but shift the characters from one continent to another and bring about a big change in destiny in the process. I think I'm a living example of Napoleon's famous phrase, geography is destiny, because I was born in Ethiopia, and I used the politics and the geography I knew well in this novel. And just like one of the main characters, I was forced to leave and went to America, and it completely changed my destiny. And I like that notion. I think geography becomes a character in this book, and I quite enjoyed playing with that idea. Mi attrae molto la storia della Porta delle Lacrime, ma anche quella dello scrittore Abraham Verghese, che un po' anche grazie alla sua biografia riesce ad avere una percezione molto particolare dell'importanza dei luoghi. Sì, lui è come se avesse un credo che per questa storia che takes place, cioè si svolge over two continents, quindi si svolge in due continenti, e il leitmotiv è che geography affecting our destiny, cioè che la geografia influenza, to affect, non ha niente a che fare con gli affetti né con gli effetti, ma beh, con gli effetti in un certo senso sì, però potremmo tradurre influenza, quindi la geografia influenza il nostro destino. È una frase in realtà di Napoleone, lui lo riconosce e dice appunto Napoleon said geography affects destiny. Io mi rifaccio a niente meno che Napoleon. C'è un cambiamento da un continente all'altro, perché appunto dice la storia che takes place over two continents, shift from one continent to another. It brings about a big change. To bring about, avrebbe anche potuto dire to bring, in questo caso non è un vero e proprio phrasal verb to bring about, però l'about rafforza molto il significato di bring, quindi ha portato un grande cambiamento, a big change, e poi spiega appunto un minimo di biografia. I was born in Ethiopia, and just like one of the main characters, I was forced to leave. To be forced, naturalmente essere costretto, e lui è stato costretto perché, come abbiamo detto prima, questo si svolge poi in un periodo molto particolare della storia dell'Etiopia. Addirittura la geografia, l'amata geografia, geography becomes a character in this novel, diventa appunto un personaggio del romanzo, perché tutto dipende da dove si trovano i personaggi, dove sono nati, dove si spostano, e lui dice mi sono divertito, I quite enjoyed, dice lo scrittore. Scrittore che è affascinante non solo per la sua provenienza geografica, per le sue storie, così le storie proprio del suo passato, ma anche per la sua attività professionale, perché Abraham Verghese in realtà è un medico. Well, the novel is very surgical, and it turns out that I'm actually not a surgeon, I'm an internist, a specialist in infectious disease. But there are a lot of basic medical ideas that I feel very strongly about that are very much in there. For example, I feel that the patient-physician interaction is really unchanged since antiquity, and whether you're in Africa or in a very sophisticated Western hospital, it remains critically important. And I think what has happened is technology and the number of specialists have kind of diluted that patient-physician experience. So I wind up making a big case in the book, I think, for an old-fashioned kind of medicine that I think is terribly important. In realtà, lui dice, non mi occupo degli stessi argomenti di cui si occupano i medici nel libro, ovviamente però rimaniamo nell'ambito della medicina. Sì, lui dice, the novel is very surgical, cioè è molto chirurgica, perché appunto parliamo di chirurghi. E it turns out, letteralmente, e viene fuori, cioè vi dico, vi sorprendo con questa cosa, that actually naturalmente, non attualmente, ma in verità, a true false friend, I am an internist, io sono un internista, specialist in infectious diseases, quindi internista, specialista in malattie infettive, ovviamente non un chirurgo, però è chiaro che un medico internista specialista in malattie infettive, qualcosa di chirurgia la sa, e perciò insomma non ammette di non essere titolato, e anzi ribadisce: è una very surgical novel. Non solo sa qualcosa della chirurgia, ma soprattutto è preparato su quello che è il rapporto medico-paziente. Questo è molto bello, perché appunto i medici possono dividersi in mille specialist, ma i patient restano patient e basta, cioè pazienti. Quindi lui dice: I feel very strong about the patient-physician interaction. Quindi la chiama proprio nemmeno rapporto, nemmeno relationship, ma interaction, come se anche il paziente influenzasse il medico. Non è soltanto il medico che ha un'influenza sul paziente, però deve esserci questa cosa, questo scambio. In qualsiasi momento della storia e in qualsiasi luogo, per tornare al cambiamento dei luoghi del romanzo. Questa è proprio appunto una delle ideas that he feels very strongly about, cioè che questa interaction is unchanged since antiquity. Bella questa parola, no? Un po' inusuale, quindi dall'antichità, avrebbe potuto dire since ancient times, ha scelto antiquity, e whether you are in Africa dove purtroppo ancora oggi la maggior parte degli ospedali sono molto molto rudimentali, or in a very sophisticated western hospital, oppure in un sofisticatissimo ospedale dell'occidente, magari americano, assettico, preciso, perfettamente funzionante all'apparenza. Infatti poi si parla sia di tecnologia, quindi della medicina moderna, e anche della old fashioned medicine. Sì, perché lui dice questa, la technology and the number of specialists, perché poi ogni specializzazione si è divisa in tante specializzazioni, no? Lo sappiamo anche noi, a volte dobbiamo andare da 20 medici diversi per avere una diagnosi, perché ognuno dice la sua sul suo pezzettino, e lui dice appunto it's kind of diluted, ha diluito questo patient physician, qui addirittura non dice neanche più interaction ma experience, e quindi lui dice I wind up, questo è un vero e proprio phrasal verb, e to wind up vuol dire letteralmente avvolgersi, però alla fine faccio tanti giri, il significato è questo, per arrivare a making a big case, cioè a dire la mia su questo argomento, che è che io voglio, come dicevi tu, an old fashioned medicine. Quindi questa medicina un po' retro, un po' alla vecchia maniera, per recuperare questo rapporto medico-paziente. Ma tornando al libro, Alla porta delle lacrime di Abraham Verghese, che è stato incontrato, lo ripeto, dalla nostra Alessandra Tedesco, beh, è un bel tomo, sono 684 pagine nella versione italiana, quindi un libro corposo, ma essendo lui un medico, come ha conciliato le sue attività e come è arrivato a scrivere questo romanzo? This novel took me a long time, not because it's a long novel, just because I think it's a complicated story, and also because my day job keeps me pretty busy, so my writing happens late nights and weekends. But I think for the kind of plot I had in mind, I think it had to be as long as it had to be. I like the kind of novels where you start to enter the novel, and in a few pages you have forgotten about the fact that it's the weekend and you're stuck at the hospital on duty, and instead you've forgotten about your taxes, you enter this other world. And the loveliest thing I've had from readers is writing to me saying, I picked up your novel thinking it's much too long, but when I got 20-30 pages into it, I was hoping that it would never end. Beh, è stato un bel lavoro per lui, e gli ha portato via molto tempo, un po' perché è una storia complicata, un po' perché è banale dirlo, ma scrivere un romanzo così lungo, così corposo, facendo un'altra attività impegnativa, qual è quella del medico, non è facile. Quindi non è tanto because it's a long novel che ci ha voluto tanto tempo, non tanto perché appunto è 684 pagine, mettiamo che in inglese sia 600 e traducendosi allunga sempre un po', però sono sempre 600 pagine, ma my day job keeps me pretty busy, quindi to keep me busy mi tiene molto occupato. Il day job naturalmente è, abbiamo detto, è un internista, quindi andrà in ospedale, penso. E quando scrive Abraham Verghese? E quindi my writing happens late nights and weekends. Avrebbe potuto anche dire happens on late nights and on weekends, ma si può anche omettere la particella, e quindi quando scrive di notte, late nights, quindi dopo che è arrivato a casa, ha mangiato, probabilmente si è riposato, quindi di notte, notte fonda, ecco, potremmo dire in italiano, e nei weekend. Doveva essere per forza così lungo, perché era l'intreccio che lui aveva in mente, non poteva essere diversamente questo libro. For that kind of plot è appunto l'intreccio, la trama, e quindi quella che lui had in mind, che aveva nella sua testa, ebbene, lo ha portato a scrivere una novel che he had to be as long as it had to be. Doveva essere lunga quanto doveva essere, punto, non poteva essere accorciata. Spesso ci spaventiamo quando vediamo dei romanzi così lunghi, magari abbiamo poco tempo per leggere, cosa che non è mai una scusa, però insomma a volte diciamo è molto lungo, soprattutto se ce l'hanno regalato. Lui lo sa benissimo e quindi dice: mi piace molto sapere che è un libro che ti avvince e ti fa entrare nella storia tanto da dimenticare tutto il resto. Quindi lui dice appunto: you enter this other world, tu entri in questo altro mondo che è il mondo del libro, e in quel momento magari ti capita in a few pages, e quindi dopo poche pagine, a few pages, you have forgotten, qui usa questa forma per dire proprio, poteva dire you forget oppure you forgot, ma lui dice you have forgotten, come dire proprio che mentre leggi succede questo, no? Sappiamo che è una forma verbale che deve indicare una cosa che si svolge lungo un certo arco di tempo. Per esempio, nel suo caso, ti potresti dimenticare che you're stuck, stuck è un verbo irregolare, to stick, stuck, stuck, sei incastrato nel tuo turno ospedaliero, in hospital duty. Quindi conveniamo anche a sapere che lui probabilmente legge long novels quando magari è di guardia. Anche a me è venuto questo dubbio, ho detto lui sta in ospedale, è di guardia, allora legge, magari non scrive, magari scrive nei weekend in cui è a casa. E qui torniamo al rapporto che hanno, evidentemente lo abbiamo visto qualche settimana fa, gli scrittori con i loro fan, che probabilmente gli scrivono, quindi the loveliest thing, loveliest superlativo di lovely, cioè carino, lovelier, più carino, loveliest, la più carina di tutte, quindi la cosa più carina di tutte che mi hanno detto, sono quelli che mi dicono, they picked it up, quindi prendono in mano il romanzo, thinking it was much too long, e già sanno che hanno sbagliato perché è troppo lungo, e poi dicono però, when I was 20-30 pages into it, I was hoping it would never end. Poi però ne leggo 30 pagine, tutto un tratto cambio atteggiamento e mi metto a sperare che non finisse mai. E questa è una delle cose più belle dei libri, essere dispiaciuti quando finiscono. È finito però il tempo della nostra trasmissione, quindi ringraziamo Alessandra Tedesco che ci ha regalato questa intervista a Abraham Verghese, autore di La Porta delle Lacrime. Ringraziamo anche Valeria Bernardi in regia e vi ricordiamo l'appuntamento con il nostro English 24 in edicola. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.